buongiorno amiche e amici del Move to Groove. 3 giugno 84, è gara 3 delle finali NBA, naturalmente Los Angeles Lakers, Boston Celtics. I Lakers vinceranno a valanga 137-104 grazie a una grandissima tripla doppia di Magic Johnson. 16 punti, 11 rimbalzi e 21 assist, e alle buone prove degli ex italiani, 21 punti di Bob McAdoo, 17 di Michael Cooper e 15 punti di Mike McGee. Per i Celtics purtroppo non serviranno i 30 punti di Larry Bird e i 16 punti e 10 rimbalzi di Scott Webman. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te caro Paolo, grazie per questa palla 2, una palla 2 che riporta una sconfitta, poi ci sarà anche un riscatto in una serie assolutamente coinvolgente, una serie che darà poi vita anche a diversi motivi di polemica se vogliamo, comunque ne faremo dei Move to Groove se volete. Sono arrivati dei consigli per quest'oggi, lo comunico anche a Paolo, hanno scritto al 333-180-9494. Gianluca ha detto: perché non fate un Move to Groove sui presidenti più fallimentari, sui presidenti meno vincenti? Poi ha aggiunto anche una nota legata all'F e scudata, noi ne sappiamo qualcosa, io non vado oltre che per la mia incompetenza, in quanto la conoscenza cestistica arriva fino a poco dopo gli anni 90, in più giustamente perché voglio coinvolgere anche tutto il roster dei 103.1 da Paolo Onofri con il contrappunto da remoto. Oggi non abbiamo Pietro Rossi, Rookie of the Year, che avremo dalla prossima puntata, e quindi iniziamo questo Mood Groove che avrà un che di letterario a breve, e andrò a presentare il protagonista, un autore, uno scrittore per la 66nd, una casa editrice che ha modo di portare, oltre che l'originalità della scrittura, anche indagini nel mondo dello sport. Lo faremo incentrando l'aspetto cestistico, ovviamente, con un protagonista. Questo protagonista rispondeva a nome di Drazen Petrovic per quanto riguarda un suo lavoro che è stato pubblicato per la casa editrice che vi ho appena nominato. Beh, ne sapremo di più a breve. Intanto qualche chiacchiera, un po' di musica, ovviamente, con The Kenny Clarke Francis Boland Big Band Off Limits, il brano in partenza in playlist odierna. Beh, intanto ti chiedo Paolo, abbiamo motivo di soddisfare il consiglio, consigli indispensabili che ha portato poc'anzi l'ascoltatore del Mood Groove Gianluca a proposito dei presidenti che non sono stati esattamente vincenti, quindi chiedo a tutte e a tutti, chiedo anche a Lino se all'ascolto di questa puntata di martedì 4 giugno, ricordo il 333-180-9494. The Kenny Clarke, Francis Boland Big Band, Off Limits. Sarà giovedì 6 giugno alle 17, protagonista alla libreria Ulisse di Via degli Orti, Lorenzo Iervolino, autore che si occupa di sport e che ha scritto per 66th and the Second tre libri dedicati rispettivamente, magari lo incentriamo al Move to Groove, a Drazen Petrovic, a Socrates e al podio di John Carlos alle Olimpiadi di Messico 68. Nella serata si dialoga di storia e cultura sportiva a 360 gradi, quindi è giovedì 6 giugno alle ore 17, libreria Ulisse, Lorenzo Iervolino per la 66th and Second, il primo libro citato dedicato al Mozart dei canestri, a Drazen Petrovic, beh, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, un giocatore attaccante assolutamente immarcabile, un potenziale offensivo illimitato, il così detto portatore di palla inarrestabile, un giocatore con una mano mortifera, con un uno contro uno bruciante, un'intelligenza cestistica per portare a termine azioni d'attacco veramente fulminee e nello stesso tempo tecnicamente molto avanzate, classico giocatore immarcabile con immensità di punti nelle mani. Drazen Petrovic, la sua vita viene stroncata da un tragico incidente stradale, ovviamente il grande dolore che ha colpito tutto il mondo dello sport e non solo è stato immenso, di lui e resterà sempre e comunque non solo il suo grande talento, l'esempio, le difficoltà, la forza, la grinta, il modello vincente della sua mentalità, l'avvicinamento a canestro, l'aggredire il canestro in questi uno contro uno dal primo passo con intelligenza, come ho detto, cestistica, offensiva, immarcabile, restano visione e immagine costante per tutte le appassionate e gli appassionati della grande pallacanestro. Telecronache che portava Sergio Toičar, un cronista jugoslavo d'origine che su Koper Capodistria con una competenza illuminata, tra l'altro come telecronista e come competente cestistico, per me in assoluto il più importante, una conoscenza del basket tecnicamente veramente illuminata. Tornando a Drazen Petrovic, che nasce a Sebenico il 22 ottobre del 1964, scompare ad Arkendorf, incidente stradale il 7 giugno del 1993. Quindi arriviamo purtroppo anche a un anniversario mesto. È un cestista jugoslavo che poi ovviamente sarà croato. La sua carriera, quando io ho cominciato a trovarlo per così dire nelle cronache di Sergio Toičar, Sebenik dal 79 all'84, dall'84 all'88 nel Cibona Zagabria, mitici gli scontri con la stella rossa Zubna Zvezda, poi l'avrò pronunciato malissimo, andrà al Real Madrid e poi la scelta per la NBA, dove troverà due stagioni a Portland nei Blazers e altre due stagioni dove esploderà totalmente nei New Jersey Nets, esattamente dal 91 al 93, un palmares importante, anzi guarda, starlo a citare al gran completo da due Coppa di Jugoslavia, una Coppa del Re col Real Madrid, col Cibona Zagabria, due Coppe delle Coppe, due Coppe dei Campioni sempre con il Cibona Zagabria. Per la NBA sarà nel All NBA Team per quanto riguarda il 1993, nel terzo quintetto, sarà miglior marcatore al McDonald's Open del 1988, miglior marcatore finale Coppa dei Campioni del 1985, è stato inserito nella FIBA Hall of Fame nel 2007 e inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, quella NBA, nel 2002. Grazie Lino per la partecipazione, ma Gianluca ha citato tale Antonini. Che non conosco ovviamente. Topchar, un mito, Giordani per dire il suo competitor. Sì, in Rai aveva volutamente un taglio differente, più didattico e difensore delle decisioni arbitrali ad oltranza, sempre per motivi educativi. Era molto bravo Aldo Giordani, bravo, io lo confesso, gusto personale, poi averne dei cronisti così. Io quando sento quelli di adesso, già che per me hashtag cambiate il nome, perché è più Circo Medrano contro Circo Togni, ma per quanto riguarda tutto questo aspetto magari ne faremo uno speciale, ma anche i cronisti, cioè non si ascoltano, non conoscono la pallacanestro, anche se questo non è più pallacanestro, ma non sanno distinguere un dai e vai da un dai e segui, cioè è una allucinante. Essere puntigliosi, procede Lino, bisognerebbe distinguere tra presidenza e proprietà. E poi cosa vuol dire vincenti o perdenti? Posso considerare fallimentare Serragnoli, che comunque ha portato due titoli alla F scudata e una finale Champions persa contro un giocatore in missione che non si è ripetuto, e se l'avesse fatto dare, se lo avesse fatto dare, stato a una superstar di NBA, adesso è poco chiaro, magari anche tu l'hai dettato, però insomma, sì certo, c'è da distinguere in questo aspetto dirigenziale, certo, magari lo precisiamo, intanto grazie Lino. In pubblicità, poi come vi ho detto a breve andremo in una sorta di last minute move to groove per quanto riguarda la presentazione di giovedì alle ore 17, giovedì di questa settimana alle ore 17 per quanto riguarda Libreria Ulisse. Un buon ascolto e a tra poco con questo spazio di approfondimento legato al move to groove. A tra poco. Facciamo l'appello. Qualità? Presente. Qui i prodotti li scelgono i soci. Biologico? Presente. Qui tutto è biologico ed ecologico. Partecipazione? Eccoci. Noi soci siamo clienti e proprietari. Autogestione? Qui possiamo farlo. Prezzo giusto? Certo. Nel rispetto dei lavoratori e della terra. Da Camilla Emporio di Comunità. Fare la spesa è tutto questo e molto di più. Cosa aspetti ad associarti? Ci trovi a Bologna in via Casciarolo 8D. www.camilla.coop.

eccoci qua nuovamente in diretta. Per quanto riguarda la presentazione di giovedì abbiamo qualche problema di comunicazione. Comunque la ribadisco, Lorenzo Iervolino per 66 and Second sarà in libreria Ulisse dalle ore 17 per parlare, motivo di intersezione letterario, perché ho avuto questo motivo anch'io di conversazione radiofonica, se mai avverrà, perché appunto uno dei suoi lavori è dedicato a Drazen Petrovic, il Mozart dei canestri. A tale proposito stiamo ascoltando Jazz Orchestra, che è l'orchestra nazionale jugoslava della radio e della TV jugoslava dal 1900, pensate un po', 48 al 1978. Direttore ed orchestra Vojislav Simic. Ecco, fanno queste composizioni mica male, questo vinile per la Cosmic Sound, una label che appunto ha portato ricerca in questi suoni provenienti dall'ex Jugoslavia, dall'est Europa, da oltre Cortina di Ferro, insomma. Indubbiamente ottima musica, a volte sottovalutata. Poi parlando con Andrea Gozza, anche nel rock da quelle parti, oltre Cortina di Ferro, senza voler chiaramente, anche perché le identità sono ben diverse, senza voler così tagliare tutti in maniera drastica, anche nel rock c'erano formazioni che poi avevano la possibilità di viaggiare, quando si dicevano una chiusura totale oltre il muro. Conosciuto gruppi e formazioni che poi a sua volta ha avuto possibilità di ascoltare anche nel cosiddetto Occidente, quindi non è che siamo poi molto così a conoscenza di determinati aspetti per quanto riguarda anche la musica e l'arte. Allora, con questa sonorità che arriva, e magari troveremo anche motivo di ascolto e di conversazione per anticipare l'incontro di giovedì in libreria da Ulisse in Via degli Orti, è preciso, ascoltiamo la voce di Carmen McRae. Ain't so wise, but I know something worth knowing. Ce l'abbiamo fatta, siamo in collegamento telefonico con Lorenzo Iervolino per la sua produzione da 66 and Second, questa casa editrice così originale, tanto difficile da pronunciare per quanto riguarda approfondimento sia letterario che ovviamente nel Move to Groove legato allo sport, in particolare ovviamente il basket. Intanto buongiorno Lorenzo e benvenuto. Ciao, buongiorno a te, te la sei cavata benissimo comunque con la pronuncia di 66 and Second, mi ci ho messo un paio d'anni e ancora aspetto. Infatti non è immediato, però no. Ci vuole esercizio, hai capito? Sì. Intanto in quella parola o in quella quel termine, non ci sono R, che per me vuol dire molto, hai capito? Bene. Allora, intanto l'incontro che sarà giovedì, mi hanno dato 3 pubblicazioni per quella casa editrice, una in particolare dedicata a Drazen Petrovic, il Mozart dei canestri. Cosa ti ha portato a fare un focus su questo grande personaggio, Lorenzo? Ma forse una piccola dose di egoismo, la passione per il basket, poi insomma a Bologna, appuntamento appunto che sarà alle 5 la libreria Ulisse, Bologna Basket City, questo piccolo egoismo possa essere compreso e condiviso. Diciamo che il libro su Drazen arriva come terzo capitolo di un percorso che era partito un po' più da lontano, dal Brasile precisamente, con il calciatore Socrates che di cui mi sono occupato per alcuni anni. Mi è nato appunto un primo libro, una prima biografia, una sorta di reportage sentimentale nella sua vita, nel vero senso della parola, perché poi ho dovuto percorrere diverse migliaia di chilometri e incontrare molte persone. Dopodiché è stata la volta di Tommy Smith e John Carlos, i due velocisti afroamericani che hanno fatto la protesta a Messico 68 durante le Olimpiadi per i diritti umani, spalleggiati da Peter Norman, il velocista australiano. Quindi mentre lavoravo a questi libri mi ero messo in testa che dovesse essere una trilogia per completare un percorso, per rafforzare quello che avevo da dire, ossia che la politica non può essere estromessa dallo sport, non può essere considerata qualcos'altro. Gli sportivi, le sportive devono, possono esprimere assolutamente il loro pensiero e schierarsi. E così era stato infatti per Socrates con la democrazia corinziana contro la dittatura militare brasiliana, così era stato per Smith, Carlos e Norman contro le repressioni. Cosa accade con Drazen Petrovic, che invece in vita non è stato politicamente attivo, ma è stato più che altro un po' strumentalizzato dal nazionalismo croato? Quello che era affascinante, oltre quegli 8 spicchi di cuoio che ancora mi stregano, visto che l'altro ieri sono andato a vedere una finale di B2, quindi non esattamente la finale scudetto. No, ma magari trovi un basket più bello in B2 adesso. È stato divertente, devo dire. E quindi c'era il contesto, quella che noi oggi definiamo, per sbrigarci, ex Jugoslavia, che in realtà è una complessità di popoli, di persone, di paesi, di passato, di tentativi di convivenza che in realtà sono riusciti forse fino al 1980, quando cioè muore Tito e la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia inizia a prendere un'altra direzione, che è quella delle spinte nazionalistiche. Condivido in pieno questa analisi. Dall'86 appunto entra in scena un altro personaggio, che è Slobodan Milošević, per quanto riguarda la Repubblica Serba, ma ha un ruolo fondamentale all'interno di una direzione politica che secondo lui la federazione doveva prendere. Insomma, qui la storia è a noi abbastanza nota, iniziano le prime separazioni, i primi indipendentismi, sì, che sono quelli della Slovenia, che si stacca in maniera piuttosto light, e poi invece siamo allo scontro fra Repubblica Croata e quella serba, che danno il via a quelle che sono poi le 5 guerre jugoslave. E in tutto ciò, quindi siamo nel periodo 89-90-91, mentre la Jugoslavia fondamentalmente non c'è più, esiste una squadra di basket, che è la nazionale di basket maschile jugoslava, che è arrivata seconda alle Olimpiadi dell'88, vince gli europei dell'89, vince i mondiali del 90, vince gli europei del 91, sì. E chissà, nel 92, sebbene gli americani portarono a quell'Olimpiade spagnola degli extraterrestri, con la nazionale jugoslava unita, forse, magari no, però forse ci piace pensare, ci sarebbe stata un'altra sfida di altissimo Avrebbe dato filo da torcere, quello sicuramente. Sì. Poi c'è questo aspetto molto intenso emotivamente, dove da prima compagni di squadra con un fenomeno che è Vlad Divac dalla Serbia, e poi Drazen Petrovic ovviamente croato, separazione, momento tragico e tutto, poi l'immagine di Vlad Divac che va a portare un ricordo sulla tomba di Drazen Petrovic come questo è un aspetto che mi ha colpito molto, ecco, almeno sì, per quello che io ho avuto notizia dalla biografia di Drazen Petrovic. Però lascio a te la parola per altri aspetti. Sì, è chiaro che simbolicamente sono i due giocatori tanto più forti, no? Sì. Primo violino, secondo violino, poi a seconda degli ambiti. E anche Kukoc probabilmente non è male, comunque. Sì, sì, sì, Kukoc non è male ed è un capitolo ulteriore, diciamo, sì, che in quel momento 90-91-92 probabilmente solo per l'età che certo, Kukoc ha, che è più, bravo, più giovane dei giocatori di cui stiamo parlando, sì. Sì, sì, sono abbastanza immersi, e quindi sarebbe letteralmente esploso e si sarebbe consolidato. Poi insomma, diciamo che rispetto a Dražen, se vale la pena fare paragoni, ha avuto una carriera completa, no? Dražen purtroppo sì, muore a 28 anni, e quindi rimane questo segmento di vita fondamentalmente, ma anche di vita cestistica, che non conosciamo. No, tornando un attimo velocemente a Divac e a Dražen, sono sicuramente i due giocatori più rappresentativi in quel momento, come hai accennato tu, sebbene lo stesso Petrovic ha il padre di nazionalità serbo-montenegrina, nato in Erzegovina, dove però c'era una maggioranza croata e la madre è croato-dalmata, quindi tanto per capire la facilità con cui si incontrano complessità familiari, non solo etnico-nazionali, in ex Jugoslavia. Dražen e Divac sono appunto i due giocatori principali, uno serbo e l'altro croato. La narrazione un po' della loro amicizia, della loro separazione, di questo ricongiungimento che citavi tu, poi fuori tempo massimo, no? Visto sì, che Dražen appunto non c'è più, è stato ovviamente consacrato da Once Brothers, un documentario della CNN prodotto, voluto e guidato da Vlade Divac, quindi diciamo che nei miei vari viaggi in Croazia, poi a raccogliere i pezzettini della vita di Dražen, diciamo che non è proprio una certo, versione graditissima, no? Sì, è molto romanzata in un certo modo. Sì, sì, se proprio dobbiamo trovare il vero fratello, amico, paterno di Dražen Petrovic, lo troviamo probabilmente fra i croati, il suo nome è Stojko Vrančković, che poi a Bologna abbiamo è stato conosciuto, anche visto. Ed è lui che infatti nel documentario non compare, visto che ha rifiutato quella narrazione lì. Sì. Detto questo, è chiaro che ora sono passati tanti anni, le ferite sono ancora aperte. Una differenza che qui, se abbiamo ancora un minuto, mi va di, certo, di raccontare rispetto a quello che ho vissuto, che insomma, rispetto al Brasile e agli Stati Uniti, questo terzo libro ha avuto il vantaggio, proprio da un punto di vista di metodo, di essere più vicino, no? Quindi ho potuto fare più viaggi più facilmente, e dal 22 febbraio 2022, quindi dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, quello che non avevo trovato prima, cioè la disponibilità a parlare anche del periodo delle guerre, di quello che avevano passato le persone, invece mi si è completamente riversato addosso, visto che si sono sentiti dimenticati, esclusi. Visto che abbiamo avuto l'ipocrisia di raccontare il conflitto fra Russia e Ucraina come il primo dalla seconda guerra mondiale sul suolo europeo, e ovviamente non è così, ci sono state appunto queste cinque guerre dove peraltro noi occidentali abbiamo grossissime responsabilità, come NATO, come paesi singoli, perché è inaccettabile pensare che siano conflitti solamente interni, no? C'erano grossissimi interessi, certo, no, assolutamente, si rompesse quel paese, c'erano dei veri e propri schieramenti, e quindi l'Occidente era un grandissimo traino per Slovenia e Croazia per andare a smontare in realtà un esperimento, ora chiunque la può pensare come vuole, che però per alcuni decenni ha rappresentato una grandissima possibilità che era distante dall'URSS, distante dall'Occidente. In quella che era la Repubblica Federale Socialista Jugoslavia si viaggiava, si entrava e si usciva, da un punto di vista economico tutti lavoravano, insomma, poi un chiaro, c'erano delle criticità, certo. Vabbè, dove non ce ne sono, Lorenzo, esatto, però quella roba doveva finire, così è stato, purtroppo in maniera violentissima e non so quanto reparabile, sì, per adesso ancora non lo è. Io intanto ti ringrazio tantissimo per queste anticipazioni e questi contenuti. Io conosco la casa editrice impronunciabile, la 66nd Second, la conosco bene e so che certo è sport, in questo caso il protagonista Drazen Petrovic, ma anche in una determinata originalità, motivo di approfondimento e situazione. Per conoscerla, se non già la conoscete, però per avere questo lavoro che è stato portato in anticipazione al Mute Groove, Lorenzo Iervolino sarà alle ore 17 in libreria Ulisse in Via degli Orti e avremo la possibilità di condividere tutto ciò. Io ti ringrazio tantissimo e ovviamente ci vediamo giovedì. Grazie. Certo. Una buona giornata. Buon proseguimento, un saluto, ciao. Ciao. Grazie, ci vuole. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. You'd better face it. The hurting's certain, but one of love's facets. Il fatto se l'ha portato via troppo presto, secondo me doveva ancora far vedere il meglio di sé, soprattutto di là dalla posta in mezzo a quelli buoni. Drazen Petrovic era il go to guy, palla in mano, uno contro uno in avvicinamento a canestro, due più fallo, buono, o il classico arresto tiro mortifero dalla media, ha sempre due punti. E sono d'accordo Willy, anche le telecronache sono un po' cambiate, forse anche un po' in peggio, ma secondo me io ho notato che si inizia a tifare più il singolo giocatore, cioè tifare, si inizia a incitare il singolo giocatore e a volte anche un po' tifare, che il gioco in sé, la squadra e tutto il resto, si va molto per vie singolari adesso, si guarda più il giocatore che al gioco e alla squadra. Paolo, amico mio, compagno di viaggio di questo Moved Groove, salutando anche Pietro, che aspettiamo dalla prossima puntata, quando peggiora l'aspetto principale, cioè quello che deve essere telaio, cioè il gioco. Chiaro che a cascata dopo peggiorano le telecronache, peggiora tutto, peggiorano anche le divise, peggiora ogni cosa. Firmato il messaggio, ha apprezzato molto la presentazione, ascoltatore del Move to Groove, grazie a te, buona giornata. È il momento di salutarci, dare appuntamento per un voltiamo pagina atipico. Per domani non avremo Silvia Albertazzi ma Lorenzo Pauri per quello che riguarda la rubrica letteraria, quindi vi do appuntamento alle ore 7 con il Breakfast Club per la prima colazione in diretta, a breve Di Peo, Liberi Dentro, poi rassegna stampa di Radio Città Fuji col vinile della settimana curato e condotto da Andrea Gozza, da non perdere, e dal vostro William Piana. Un buon martedì, una buonissima giornata e un buon ascolto. Mi raccomando, domani ore 7 puntuali. Ciao!